si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini, buon sabato a tutti. Eccoci qua in una versione rivisitata e corretta, in una versione registrata, puntata e realizzata. Ringraziamo, anzi salutiamo il nostro autore Andrea Piana, Claudia Schiattone, Giovanni Melchiorri, nuova entry, new entry nella redazione di Radio 24 e di Si Può Fare, Paolo Corleone in regia. Ciao Paolo. Ciao, lo sentite, ma lui ha detto ciao. Esatto, ha detto ciao. Giustamente li salutiamo in testa, perché non si sa mai se poi ci dimentichiamo di salutarli in coda. Esatto, e quindi esatto. È molto giusto. Allora, non chiamate oggi al numero verde, scriveteci se volete sulla pagina Facebook, sui nostri contatti vari, poi ve li ripeteremo strada facendo. Questa Io sono anche su Snapchat, volevo dirlo. No, questa è una cosa che mi inquieta molto. Non so proprio come prenderla, se devo prenderla bene o male. Benissimo, bene, Snapchat è il futuro, è straordinario, futuro. È stupendo, è poi bellissimo. E sono sempre come Carlo Gabardini anche su Snapchat. Poi mi spieghi, poi sì, mi spieghi. Ma volevo chiederti un'altra cosa. Dimmi. È la penultima? Sì. È la penultima, diciamo, in questa versione qua. Nella versione sì. Del fine settimana. Abbiamo deciso di farvi risentire. Sono già triste. No, di farvi sentire, non risentire, come sono andate a finire alcune storie di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Parleremo di librerie e castelli da salvare. E scoprendo pezzi nuovi, quasi già salvati, o perlomeno con delle proroghe di salvataggio. Speriamo che siano stati salvati. Parleremo anche di terreni confiscati alla mafia e di salvare le persone che ci lavorano sopra dalle intimidazioni camorristiche. Oggi c'è una importante manifestazione a Sessaurunca, a Maiano, per la legalità. E quindi siamo con loro. E anche di legalizzazione della canapa. Giusto, perché lunedì, notizia, alla Camera entra la legge per la legalizzazione. Una proposta. Per la prima volta. È un fatto importante. Molto. E allora, andiamo, iniziamo, vai. Chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali. E dedica con data se è un regalo, col prezzo ben nascosto dietro un adesivo, e l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro. Sarai mai stato in metropolitana, su una corriera sudamericana, in uno zaino pieno a dondolarti sopra un treno, arrotolato in tasca in un cappotto, chiuso nel buio di un cassetto. Il 30 giugno scade per naturale decorrenza il contratto d'affitto dell'immobile in cui si trova la libreria dal 1998. In pratica, purtroppo non abbiamo raggiunto un accordo con la proprietà, che ha proposto un canone di affitto non sostenibile, un aumento quindi del canone sproporzionato e non sostenibile per una libreria che, come tutti sanno, non è un'attività commerciale come le altre. Quindi diciamo che in costanza delle stesse condizioni commerciali non possiamo sostenere un affitto che è quasi il doppio, non fatturando quasi il doppio. E questa era la voce dimessa allora di Antonella Ferrara, che è tornata a trovarci. Ciao Antonella. Buongiorno a tutti. Buongiorno, un po' più squillante oggi come voce? Sì e no, diciamo, a metà. E allora piccoli passi. Qualche notizia, stiamo parlando della libreria Bucolo di Taormina, una libreria che è l'unica libreria di questa meravigliosa di città, tra l'altro, che era, come avete sentito dalla voce di Antonella, era a rischio chiusura per la questione, la vessata questio dell'affitto, della proroga dell'affitto, affitti troppo alti. Adesso una mezza buona notizia ce l'abbiamo, Antonella, vero? Sì, allora, esatto, una mezza buona notizia, in quanto ovviamente tutta la pressione mediatica che c'è stata attorno a questa storia triste, e anche quindi grazie al vostro contributo, per esempio, viene da dire, ce ne vantiamo in giro, abbiamo messo un ditino anche noi su questa pressione mediatica. No, avete fatto sicuramente la parte importante, e quindi la proprietà, su nostra sollecitazione chiaramente, sì, ha deciso di concedere una proroga quindi dandoci un'indennità di, diciamo, corrispondendo un'indennità di occupazione, noi potremo restare nell'immobile fino al 30 settembre, quindi ecco, ci ha concesso 3 mesi di proroga. Ecco, la buona notizia è stata bravissima a diluirla molto. La buona notizia è la proroga, la non buonissima notizia è che la proroga è di soli 3 mesi, giusto? E non di 3 anni o di 30. No, perché lì si sarebbe trattato di un rinnovo di contratto che, come abbiamo capito, non sono assolutamente disponibili a fare a condizioni eque. Quindi di quello non si tratta proprio, semplicemente il fatto che mi hanno permesso di arrivare alla fine di Tao Book, quindi che di il festival a fare, certo, il festival Tao Book, senza che questo venisse pregiudicato da un mio trasferimento un mese prima. Certo. Ovviamente. Noi tra l'altro, sì, avevamo anche detto, a quell'epoca Renzi aveva appena annunciato, voglio fare il G8 a Taormina. Ora, come si fa a fare un G8 senza neanche una libreria? Ammesso che gliene frega qualcosa ai potenti della terra, però diventava un po' complicato. Ma le istituzioni non hanno raccolto il tuo grido di dolore, Antonella, perché tu avevi chiesto anche al comune, sì, di intervenire. Esattamente, loro comunque asseriscono di non avere dei locali disponibili e quindi di non poter venire incontro alla mia istanza. Ovviamente, perché tu chiedevi di pagare un affitto, non di avere un posto gratis. Pagare un affitto equo, e magari il comune poteva essere il soggetto giusto per farti una proposta di questo tipo. Possibile che a Taormina non ci sia uno spazio del comune da dare in affitto all'unica libreria? Tra l'altro, un equo canone, che significa un canone che è equo per Taormina, ma se lo commisuriamo ad altre località, anche l'equo canone è per altro, rispetto ad altre località, caro. Quindi noi eravamo comunque disponibili ad assorbire un affitto normalissimo rispetto ad altre località. Cioè, parliamo anche di 2.000 euro al mese, quindi non diciamo un affitto simbolico. Noi eravamo disponibilissimi, però deve essere commisurata a quelle che sono le possibilità reali di fatturato di una libreria, come ci siamo detti mille volte. Certo. Purtroppo questa possibilità non è attuabile, a quanto pare. Ma come mai? Ma perché il comune non vi dà dei locali? Perché non hanno locali. Dice che non ne hanno. Dice che non ne hanno. Ma insomma, credo che non esista comune che non abbia un locale. È questa la motivazione, secondo... Questa è la motivazione ufficiale, è questa. Poi, diciamo, io naturalmente ho dei buoni rapporti con l'ente per via anche, sì, del festival Tao Book, che si svolge ormai alle porte, perché tra 2 mesi inauguriamo il 10 settembre esattamente, quindi capite bene che è una situazione anche abbastanza difficile sotto il profilo diplomatico, perché devo tenere insieme tante cose. E questa, diciamo, che è stata la risposta ufficiale. Mi sono rivolta anche ai privati, perché ovviamente una collettività è fatta di pubblico e privato, certo, e dovrebbe stare a cuore anche ai privati riuscire a tenere in piedi questa libreria. Certo. Io a questo proposito voglio dire che già gli ascoltatori che ci stanno ascoltando e che penseranno, ma è il mercato, se non c'è la possibilità che le librerie siano sul mercato, bla bla bla bla bla, però non è possibile che una città come Taormina non abbia una libreria, librerie di tutta Italia, di tutto il mondo unito. Cerchiamo di trovare una soluzione a questo problema, perché non è davvero possibile vedere che nelle nostre città aprono continuamente slot house, centri scommesse e chiudono le librerie. Soprattutto le piccole librerie, perdonami adesso perché hai detto librerie di tutto il mondo, unitevi, sì, ma poi ognuno faccia la sua piccola libreria, perché diciamo sull'unirsi si stanno già lavorando. Il rischio è che poi ci sia un'unica gigantesca libreria che si chiama Amazon. Noi speriamo, la prossima volta che ci risentiamo, Antonella, che ci sia, oltre una proroga, qualche cosa di più. Speriamo che questa pressione mediatica resti e il comune si muova. Che dire, in bocca al lupo anche a te. Vi ringrazio e speriamo bene, speriamo di sentirci presto con buone notizie. Mi raccomando. Grazie mille, buon festival. Tanto buon festival. Grazie a voi. Grazie, ciao, grazie. Antonella Ferrara, ciao da Taormina. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Le femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. E allora, lunedì, ecco la notizia. Abbiamo anche le notizie. Lunedì entra alla Camera per la prima volta in Italia una proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis. Il testo Giachetti, 15 grammi per uso personale in casa, 5 grammi che si possono portare anche fuori e la possibilità di coltivazione in casa fino a 5 piantine, credo. Una... Noi siamo contenti perché tanto che ne parliamo, sì. E comunque la questione della legalizzazione della marijuana ci sta a cuore, anche perché sappiamo tutti che sarebbe una botta alla criminalità. Certo, lo dice anche la Direzione Nazionale notevole, Antimafia, esatto. C'è un avallo importante lo da diciamo questo da punto molti di vista, anni. Ne parliamo, noi siamo favorevoli, così come lo sono quelli di Nativa, ed ecco noi Manfredi Galano, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Una società nata proprio per sfruttare le potenzialità economiche, così come è successo, tanto per dirla subito, in Spagna, è così, no? Ma sì, la logica è questa, anche se è un modello differente, lo spagnolo, sì. Ma lo vedremo sicuramente più avanti. Sì, però intanto chi siete, Nativa, e che cosa fate fino a... Guarda, la cosa tra virgolette è semplice, nel senso Nativa nasce dalla volontà e l'intuizione di alcuni imprenditori che hanno deciso di muoversi per primi su un mercato che prima o poi sarà legalizzato, sarà aperto, perché in tutto il mondo si vedono i benefici di questa apertura sul mercato della cannabis e, come si dice a Roma, dagli e dagli, prima o poi si liberalizzerà anche in Italia. Pensate che sia la volta buona questa, ci credete? Noi quello che abbiamo, da quando siamo partiti, da gennaio, noi abbiamo detto che il 2016 sarà l'anno buono, come per definizione ogni giorno che passa la possibilità diminuisce, ma il lunedì andrà in aula a discutere quella legge, sì. Che dà un'apertura su questo modello. Non crediamo che sarà, diciamo, il momento definitivo di questa cosa, non lo potrà essere sia per iter che per discussione in sé, perché ci sono, diciamo che la legge proposta fondamentalmente cerca di accontentare un po' tutti gli aspetti. Sì, c'è una c'è una maggioranza teorica trasversale ai partiti di parlamentari che sono favorevoli, però bisognerà vedere poi se si ricomporrà. Esatto, tutta attorno ad un testo unico, insomma, di legge. Tenete conto che inizialmente la legge si voleva dividere fra le due commissioni per poter dividere il discorso del ricreativo dal discorso del medico. Nativa da questo punto di vista va un po' oltre, nel senso che ovviamente parlando di cannabis per uso ricreativo è ovvio che quella medica la diamo per scontata, è una cosa che non si dovrebbe neanche discutere a questo punto. La cosa che ovviamente merita una discussione per discorsi di criminalità, di gettito fiscale, di potenzialità di mercato, è quella ricreativa, e noi ci basiamo su quello. Sappiamo una cosa, noi questo abbiamo, sì, verificato, e secondo noi è la cosa più interessante. Due aspetti sono: il primo è che le stime sul mercato della cannabis sono stime secondo il nostro modesto punto di vista anche al ribasso, perché vengono dai sequestri della polizia ma ovviamente non c'è l'Istat che telefona alle persone chiedendo se sono consumatori e quanto consumano. Anche perché ovviamente la polizia non la becca tutta, possiamo dirlo. Non la becca tutta, loro per stessa ammissione, ma è un dato evidente, mi sembra sia intorno al 10% la stima, perché ovviamente non beccandola tutta non possono sapere quanto è tutta quella che passa. Certo. Ragioniamo su 10%. Un ragionamento che nessuno tiene conto sono due. Il primo, il numero dei turisti che vengono ogni anno in Italia. La notizia di Nativa ha fatto il giro del mondo, letteralmente, e sulle pagine Facebook internazionali dedicate all'argomento le persone sostanzialmente commentavano dicendo: ah, è marijuana alla luce del sole italiano, che meraviglia, vorrei essere in Italia oggi. Cioè già si sta facendo il brand italiano, si sta prima ancora della legalizzazione. Ma perché secondo voi, Manfredi, la cannabis ha delle potenzialità? Ricordiamo che bisogna consumarla moderatamente, che non bisogna poi mettersi alla guida a piccole dosi, eccetera, eccetera. Insomma, esattamente come vale per le stesse regole che valgono per la grappa, per l'alcol. Però perché invece secondo voi è una potenzialità, un'opportunità anche per l'Italia la cannabis? Beh, per due motivi. Il primo è il know-how. È il know-how che l'Italia ha sempre avuto sulla pianta. È come parlare di pomodori. Voglio dire, la canapa è sempre stata una... Se voi andate in Puglia, se voi andate nel sud Italia e prendete i vecchietti di 70 anni, 80 anni, tutti loro si ricordano di quando coltivavano la canapa. Cioè, know-how... Ne abbiamo parlato molto spesso del fatto che la canapa è una pianta straordinaria, che in Italia aveva coltivazioni ovunque e poi ovviamente con la questione della canna si è eliminata. Niente, esatto, punto. Esatto. Questo è un altro punto. C'è una fortissima ignoranza pressappochismo sul mondo del THC. Assolutamente, cioè poco tempo fa, ma noi ci abbiamo riso molto anche con Dolce Vita, che è una testata che ovviamente tratta questi temi, l'ha ripreso l'argomento. Il TGR del Piemonte è uscito con una notizia dicendo il THC, la nuova droga che sta invadendo le strade. Ah, l'ho visto, è un video che fa veramente molto ridere, perché parlare nel 2016 di nuova droga è veramente comico. Ma una cosa che volevo chiederti: è normale che si inizi un'attività commerciale come la vostra prima che essa sia legalizzata? Beh, mi fa piacere questa domanda, nel senso che nel marketing, in alcuni ambiti del commercio, delle aziende, quello che viene definito il first mover di solito è sempre avvantaggiato. Il punto è proprio questo: noi abbiamo Nativa, fondamentalmente ha studiato il management di Nativa, chi ha messo i denari per questa operazione ha studiato il mercato e ha verificato quanto sui grandi numeri di fatto vince è appunto logiche di marketing e di comunicazione. Perciò il muoversi prima in ottica di brand, spingendo fuori molto con molta forza un marchio di marijuana italiana alla luce del sole, con il clima italiano, che è la cosa per cui il mondo ci riconosce, e ricordiamoci che la cannabis ovviamente è strettamente legata al clima. Il leitmotiv è semplicemente uno: se in Italia crescono i migliori pomodori, le migliori melanzane del mondo e l'eccellenza agroalimentare ce la invidiano in tutto il mondo, perché non dovremmo essere i leader o avere la produzione di cannabis migliore del mondo? Insomma, è chiaro, non avete voluto perdere tempo, anzi avete voluto agire sul tempo, in controbalzo. Esatto. E allora, visto che parliamo delle potenzialità dell'agricoltura italiana, è con noi anche un imprenditore agricolo di Foggia che è tra i primi ad aver aderito al progetto Nativa, Osvaldo Di Biase. Ciao Osvaldo, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno. E allora, intanto la domanda di rito: sei un consumatore di cannabis? No, non sono consumatore di cannabis. Ecco, già. Ma questa non è una domanda di rito, questo è un interrogatorio. Non si può rispondere. Perché qua stiamo parlando di un'attività imprenditoriale. Cioè, nel senso, cosa, Osvaldo, tu sei un imprenditore agricolo, hai già delle terre. Siamo un'azienda a conduzione familiare ormai da 5 generazioni nell'ambito dell'agricoltura nella provincia di Foggia, sì. E vorresti produrre cannabis qualora fosse, diciamo, consentito, perché la legge dovrebbe prevedere anche la produzione in associazione, è questo quello che credo di aver capito. Certo. Cioè, mi sono appena letto di Nativa su Repubblica, sui vari social e quant'altro, ho preso la palla a balzo e mi sono mosso il prima possibile, come diceva prima anche Manfredi, bisogna arrivare prima per alloggiare meglio, nel senso, lo vedo una, vedo una buona prospettiva come business, soprattutto come business, ma soprattutto anche dal punto di vista sociale. Ne parlavamo, abbiamo parlato spesso di questo fatto. Ne ha bisogno l'Italia, prima bisogna convincere dal punto di vista del sociale di legalizzarci, ci sarebbero solo dei benefici dal punto di vista del controllo. Però, e quant'altro. Sì. Osvaldo, tu pensi alla cannabis, quella con alto contenuto di THC per il consumo, quindi qualora dovesse essere legalizzata, oppure proprio anche alla canapa e a tutti gli altri usi di cui parlavamo prima per quanto riguarda il tuo progetto imprenditoriale? Il mio progetto imprenditoriale comprenderebbe entrambi. Tutte e due. Comunque ci sarebbero anche gli scarti di lavorazione dalla canapa. Si potrebbe ricavare tutta la filiera. Una grande filiera ci sarebbe dal punto di vista alimentare, ricreativo, sanitario, dal punto di vista oggettistico e degli indumenti. Ci sarebbe... Direi soprattutto di cibo, perché tu ti occupi anche di street food e ricordiamo che con la cannabis in realtà si fanno anche i dolcetti, i biscotti, le tortine. ma tu pensi che quindi la cannabis potrebbe essere lo street food del domani? Lo spero, perché mi piace questa idea un domani di portare i muffin e i vari dolci classici aromatizzati in scopo ricreativo negli eventi, nelle feste. Alla cannabis, perché no? Però io non ho capito una cosa, lo chiedo a Manfredi Galano di Nativa. La proposta di legge che è in discussione, che va lunedì alla Camera, prevede la possibilità di coltivazione a casa di alcune piantine, poi si dice anche in forma associata, no? Ed è qui che si apre la possibilità delle società, dei club, del franchising. No, sono due cose diverse. Ecco, spiega. Il social club è il modello cosiddetto spagnolo, nel senso che la legge prevede che tutti possano coltivare 5 piante a casa, mi sembra 5 il testo di legge dica. Sì, 5. Non tutti necessariamente vogliono farlo, allora cedono il loro diritto a dei club che possono coltivare fino a 50, mi sembra, possono prendere il diritto di 50 persone. Cioè, anziché farlo io, lo delego a te, che è il club. Qualcun altro che lo fa per me. Io ho una tessera, entro come tesserato, come socio del club, e compro, acquisto quello che produce un altro il mio diritto. Certo. Esattamente. La questione che viene anche discussa lunedì è il monopolio di Stato, e cioè altri sistemi, altre logiche, tipo quelle americane per intenderci, cioè lo Stato che si mette sopra e attraverso il suo lavoro dalle dogane piuttosto che monopoli cede a dei privati, ma controlla i privati che possono produrre e vendere la cannabis. Il monopolio di Stato, come le sigarette, non è che lo Stato produce le Chesterfield piuttosto che il Marlboro piuttosto che tutte le altre. Ma questa è la differenza, infatti, fra legalizzazione e liberalizzazione, giusto? Noi stiamo parlando solo di legalizzazione. Certo. Esattamente, si fa una grandissima confusione. Il passo di fatto è questo: legalizzare e mettere lo Stato come monopolio garantisce, perlomeno sulla carta, quantomeno, l'abbattimento della criminalità. Ecco, a questo proposito diciamo una cosa importante, Manfredi Galano, perché c'è, l'abbiamo detto in apertura, l'avallo della Direzione Nazionale Antimafia a questa proposta di legge, perché sono convinti che si toglierebbero risorse, strumenti proprio alla criminalità. Tu prima citavi le cifre, no? Di questo giro d'affari, quanto è stimato e come cambierebbe il mercato dopo da quel punto mi di vista? Mi sembra che siano 3 milioni di tonnellate, se non vado errato, la vendita, la stima di acquisto di cannabis sul territorio. Oggi l'unico che lo vende sono le criminalità, microcriminalità, criminalità organizzata, possiamo discuterne. E togliamoci dalla testa che questo si possa eliminare così in un colpo. Quindi questo è la realtà d'oggi. Certo. Questo è una cosa che voglio precisare: il modello spagnolo non ha tolto la criminalità, questo ha detto degli stessi spagnoli, perché il club è il club, dopodiché il club ovviamente non c'è un controllo sopra, per il quale può darlo anche a chi non è associato, intendiamoci. L'unica garanzia è effettivamente avere un controllo dello Stato su questa filiera. Una cosa voglio dire, per attaccarmi, agganciarmi a quello che diceva Osvaldo e all'aspetto che dicevate prima, i guru americani, quelli che effettivamente quando entrano in un mercato, una volta aperto ci entrano seriamente, loro vedono il vero business della cannabis, lo vedono realmente legato ai prodotti edibili, cioè i prodotti, i biscotti, le torte, gli estratti, cioè non è neanche più il singolo prodotto che viene sbriciolato e fumato, per intenderci. No, è chiarissimo, ma anche perché il fumo non è in un gran momento, in generale si sta, da un lato ci sono tutte le campagne contro il fumo e quindi non è che uno oggi si mette nel mercato del fumo e delle sigarette. Rendete libero il fatto che una persona possa assumere un principio attivo di una pianta naturale. Certo. Cioè, come, ci sono mille modi, uno di questi è fumare, ma sappiamo quanto crea dei problemi, anche se ci sono tanti modi diversi per assumerla. Un altro è mangiarla fisicamente. Mi raccomando, sempre a piccole dosi, sempre con buon senso, sempre semmai prima di mettersi al volante di qualche mezzo di trasporto, questo diciamolo, perché noi siamo favorevoli eccetera eccetera, però con la dovuta intelligenza. Io vi saluto e vi ringrazio, lunedì appuntamento alla Camera con questa proposta di legge sulla legalizzazione, vedremo se farà passi avanti, chissà. Speriamo di sì. Speriamo di sì. In bocca al lupo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. This enemy of mine, divinity defines. Everybody run now, everybody run now. Everybody run now, everybody run. Under the burning sun. Mancano pochi giorni alle Olimpiadi, pochissimo veramente, poco più di una decina di giorni, e invece manca poco più di un mese all'inizio delle Paralimpiadi. Che come da tradizione, appena finiscono le Olimpiadi, iniziano nel loro splendore. Un grande appuntamento, è tornato a trovarci Roberto La Barbera. Buongiorno. Ciao, Roberto. Ragazzi, ciao. Buongiorno. Un grande atleta e sentirete, se non lo conoscete già, un grande uomo, è stato anche scritto un libro su di te, storia di un ragazzo in gamba. Roberto, tu sei un atleta, sei un atleta di velocità, vero? E di salto in lungo? Sì, c'è la tua grande... duecentista, quattrocentista e saltatore in lungo. Esatto. Allora, così, giusto per non farsi mancare niente, perché il bello è anche questo, che gli atleti delle Olimpiadi di solito ne fanno solamente una, quelli paraolimpici invece, giustamente, siccome non si fanno mancare niente, ne fanno 8, 9, 10 senza nessun problema, complimenti. Adesso vado anch'io per una sola, però per saltare in lungo devo essere molto veloce e molto resistente, di conseguenza mi ritrovo sempre a correre forte per poter saltare in lungo. Bisogna prendere la rincorsa. Certo. Hai vinto già un bel po' di medaglie agli europei, alle paralimpiadi, vogliamo ricordarne alcune? Così, giusto per far capire. Sì, ho una medaglia olimpica, 8 medaglie ai campionati del mondo, 12 medaglie ai campionati europei, titoli italiani dal 98 sino ad oggi sono sempre stati miei, quindi qualcosina ho fatto, dai, sono soddisfatto. Come va la preparazione per queste paralimpiadi? Va alla grande, quest'anno ho azzardato parecchio, quest'inverno ho fatto un lavoro veramente infernale associato pesi e pista, dove tutti i giorni ero sia in palestra che in pista per 6 volte alla settimana, molto spesso chiedendomi mi farò male, non mi farò male, fortunatamente malgrado l'esagerazione del lavoro non mi sono fatto male, adesso mi ritrovo praticamente un ragazzino, quindi sto veramente bene. Tu sono quanti anni hai, diciamolo, perché... Ho 49 anni. Ma insomma, in più amici sedentari, vergognatevi tutti, amici sedentari. Continuo a andare sempre più forte. Esatto, quindi, stai dicendo a me. Io me ne sì, approfitto. Sto dicendo a te, sto certo. Dicendo a me, a tutti quelli che hanno più di 40 anni, vergognatevi di non fare nulla. Perché questa è la cosa incredibile. Roberto La Barbera. Allora, se uno vede quello che fa Roberto La Barbera, si può sentire solamente una schifezzina che non è in grado di fare niente in confronto a quello che fa lui, veramente, guarda. Raccontaci un po'. Io penso che decida da invecchiare quando quando vuole. Se uno decide di invecchiare, decide perché lo vuole lui. Anche a 20 anni. Se decidi di stare giovane, rimani giovane, non c'è niente da fare. Io vedo mio padre, 77 anni, e ancora per 3-4 volte a settimana si fa 10 km di corsa. Ah, vabbè, allora è una stirpe. È una malattia di famiglia che avete, malattia, però, questa, secondo me. Per fare quello che faccio io, e quindi un po' il gene l'ho preso dalla famiglia. La nobile stirpe della Barbera. Allora, raccontiamo un po' anche la tua storia, però, perché tu hai subito l'amputazione di una gamba dopo un incidente in motocicletta. Quanti anni avevi? Esatto, io avevo 18 anni e arrivavo dal ballo. Io ho cominciato a ballare all'età di 4 anni, quindi mi sono ritrovato a 18 anni un ballerino senza un piede, a colpa di una serata un po' stupida, perché non mi sono fermato a un incrocio, io ho visto buio, in realtà c'era una macchina con le lucine di posizione che stava passando ad alta velocità, ma purtroppo quando me ne sono accorto ce l'avevo già nel fianco. E poi però non ti sei fermato neanche a quel punto e hai guardato dritto di fronte a te. Esatto, ho aperto la scuola di ballo, mi sono messo con mia moglie, con la mia, quella che poi sarebbe diventata la mia futura moglie, perché dopo 2 anni ho conosciuto Margherita, con la quale ho fatto 3 figli fantastici. Abbiamo aperto una scuola di ballo assieme, ancora oggi facciamo spettacoli teatrali di ballo io e mia moglie, fra una gara di atletica e l'altra, perché lei è appassionata di quello. Sempre per, come abbiamo detto prima, per non farsi mancare niente, giustamente, se uno ha 20 minuti liberi fa uno spettacolo di ballo. Esatto, certo. Arrivavo alle 7:30 stanco morto con l'atletica leggera, dall'atletica leggera c'era già mia moglie con la borsettina del ballo, andiamo a fare le prove. Ho passato un periodo, ogni tanto passo dei periodi un po' da folle. E quando hai deciso invece di diventare un atleta, di metterti a correre e a saltare? Che mia moglie dalla sala mi ha chiamato, corri Roby in cucina a vedere cosa sto vedendo io, e ho visto un frangente di una gara della finale delle Olimpiadi di Barcellona, dove un certo Tony Volpentest aveva fatto 11,76 nei 100 metri senza due piedi. Diciamo che era stato il primo Pistorius, in realtà era stato Tony Volpentest, il promotore dei biamputati, anche lui un mostro veramente, un focomelico, gli mancavano anche le braccia. E tu sei rimasto? Sono rimasto folgorato completamente, perché assieme a lui c'erano tutti altri amputati e io ho detto, ma da dove sono usciti questi qua? Cioè io non sapevo assolutamente della possibilità di avere una protesi per poter correre e tutto, e da lì è diventata una droga, sai, come il bambino che quando il giocattolo non lo guarda mai, ma quando lo rompe diventa essenziale. Stessa cosa, certo. Io ho visto quella cosa e quindi mi sognavo di notte di correre, quindi sono stato obbligato a trovare il modo per poterlo fare, ma solo per hobby, così per mia soddisfazione personale. Invece appena sono riuscito ad avere un attrezzo del genere è diventata una droga incredibile, e i risultati e i tempi mi hanno permesso poi di cominciare a arrivare agli italiani, agli europei, ai mondiali e poi le Paralimpiadi. Per esatto. Quale gara ti stai preparando per le Paralimpiadi? Il salto in lungo. Salto ormai in lungo. Le energie le devo tirare fuori tutte dove ho possibilità seria di medaglia. Senti, ma ci sono i golfisti che pare che stiano dando forfè in serie perché temono per via di Zika della zanzara. Che ne pensi? Sono dei fighetti questi golfisti. Io questa è la quarta Olimpiade. Ad ogni Olimpiade, i 7-8 mesi precedenti all'inizio delle Olimpiadi, sembrava che capitasse sempre la fine del mondo. Ma sono sempre i golfisti che si lamentano? a turno, c'è sempre qualcuno. Forse guadagnano troppi soldi e si sono etichettati, dovrebbero essere un po' mi più viene il sospetto che noi. Sia così, hanno fatto tanto per tornare alle Olimpiadi, esatto. Ma poi non ci vogliono andare. No, scusa, allora... ti abbiamo interrotto, dicevi, tutte le volte succede qualcosa, ma... Tutte le volte succede la catastrofe, non hanno i soldi, il campo non è finito, a un mese prima, poi ogni Olimpiade è sempre più bella di quella precedente. Mi ricordo anche a Pechino, l'ultima non si doveva fare per lo smog e quindi l'avrebbero dovuta rifare ad Atene. Sino all'ultimo momento era così, poi è venuta fuori un'Olimpiade stupenda anche quella di Pechino. Solo a Londra non sono stati zitti, perché gli inglesi sono perfetti e quindi i loro problemi se li sono tenuti a casa loro. Però in tutti gli altri è l'eccezione che conferma la regola, il paradigma inglese. Noi ti facciamo. Però poi hanno chiuso il portone, hanno detto Brexit, ciao, grazie, arrivederci, se ne sono andati. Come si dice, facciamo gli scongiuri del cane, cosa dobbiamo dire? Tutte queste cose qua le ho già dette, basta il pensiero. Un grande pensiero allora per te, Roberto La Barbera, per tutti gli altri atleti paralimpici naturalmente. Certo, grazie mille. E a presto. A presto. Veramente di cuore, seguiteci. Certo, certo, grazie. Vi inseguiamo. Soprattutto, ciao. Fa male tutto. Aspetta. Aspetta, io ti conosco. Assomiglio a un sacco di gente. No, no, no. Oh, Bing Bong, l'amico immaginario di Riley. Chi l'ha detto che solo i bambini hanno amici immaginari? I miei sono i personaggi con i quali sono cresciuto, attraverso la televisione, il cinema, i fumetti. Se volete ve li presento. Sono Giovanni Savarese. Vi aspetto dal 6 agosto con l'amico immaginario, ogni sabato alle 23 e la domenica alle 14. Naturalmente qui su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra, perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci. E vi ricordo che tutte le nostre scelte musicali, le canzoni, la playlist di ogni puntata è pubblicata e la trovate sul nostro sito, sulla pagina di Facebook e sulla pagina di Si può fare, sul sito di Radio 24. Salvami Giovanotti. Loro invece vogliono salvare il castello di San Mezzano, sono tornati a trovarci, è con noi Francesco Esposito. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, ciao a tutti. Allora, Save San Mezzano. Save San Mezzano, una pagina Facebook inizialmente, dico bene? Una sì, petizione, sì. Una petizione che ha raccolto oltre 30.000 firme. 30.000 firme. E però l'obiettivo era 25.000, diciamolo, sì, quindi siete già a 5.000 oltre. Avete firme in più, le potete dare per il referendum forse. Assolutamente sì. Anche grazie a noi che vi abbiamo ospitato qualche tempo fa, è una puntata nella quale volevo andare a vedere come sono andate a finire tante storie di cui abbiamo parlato. Qua non c'è ancora una fine, ma c'è una preoccupazione che dà inizio alla vostra storia. La preoccupazione nasce quando il castello, un gioiello bellissimo, di valore inestimabile italiano, di San Mezzano, va all'asta e lì arrivate voi, perché c'è la paura che possa finire in mano ai privati, che possa essere chiuso al pubblico e quindi si crea il movimento di cittadini. Sì, in realtà il castello è sempre stato privato. Allora, il fatto che è andato all'asta, diciamo, è stata più una cosa che ha provocato le iniziative, perché il castello è privato, è chiuso da 25 anni. E purtroppo, insomma, essendo comunque un bene uno del suo genere, che si preferisse fosse aperto a tutti, fosse insomma valorizzato il più possibile, e in queste condizioni da diverso tempo, il discorso di andata all'asta è stato un'opportunità che per noi è stata sfruttata, nel senso che portiamolo sotto l'attenzione di tutti questo castello. Ma anche il parco, funzione. Scusa, anche il parco è chiuso da 25 anni, il parco intorno? Allora, il parco è accessibile. Ah, infatti mi sembrava che la paura fosse nel momento, è sempre stato che privato, certo, è sempre stato privato e quindi ci mancherebbe, però nel momento in cui lo compra qualcuno che invece intende farci qualche cosa, che a quel punto chiude tutto, chiude tutto il parco e non lo lascia la collettività. Magari lo compra uno sceicco, ci fa una casa privata, insomma, certo. Uno con bene proprio ci fa quello che vuole. No, sembra una battuta la tua, ma non è, potrebbe anche non essere, perché non sarebbe la prima volta che una qualche cordata di imprenditori arabi compra e fa affari nel settore certo. immobiliare in Italia. Certo. E quindi questa petizione invece garantisce, allora, che il castello mantenga la fruibilità e l'accessibilità pubblica indipendentemente da chi ne acquisterà la proprietà, esattamente, giusto? Esattamente, sì, la petizione era nata con questo scopo e per l'appunto erano 25.000 firme l'obiettivo, ne abbiamo raccolte 30.000, quindi l'abbiamo chiusa. Adesso la presenteremo in regione, al comune di Reggello, che è il comune dove è ubicato San Mezzano, e al Ministero dei Beni Culturali. Chi è stato al vostro fianco in queste settimane, in questa allora, battaglia? In realtà abbiamo riscontrato, soprattutto ultimamente, tanto appoggio da parte dei politici, e, insomma, di tutti gli schieramenti. Ecco. Per l'appunto è stata approvata in regione una mozione, questa è una vittoria importantissima per noi, una mozione che garantisce, cioè che impegna la giunta regionale a fare tutto ciò che le è possibile per garantirne la fruibilità pubblica e tutte le attività di sensibilizzazione in merito all'importanza monumentale. Cioè la cosa più semplice sarebbe comprarselo, però quanto costa questo castello? E allora, l'ultima asta, che poi è stata insomma sospesa, era intorno a 15 milioni di euro. Il discorso è che anche qui ci sono notizie positive, per fortuna. Sì? Sì, praticamente la società proprietaria del castello ha detto che sono intervenuti dei nuovi soci, insomma un'altra società che ha acquistato tutti i debiti della prima società, quindi dei tre proprietari, e adesso quindi sono pronti insieme a realizzare un piano di recupero per il castello. Chiedo scusa, magari sbaglio, ma non è un po' poco fare tutto il possibile affinché la fruibilità al pubblico sia garantita? Perché uno dice faccia tutto il possibile, gli chiedo potete lasciarlo aperto? Loro dicono no, non lo lasciamo aperto, grazie, arrivederci. Mettiamolo in questo modo, in Italia la proprietà privata è tutelata. Certo, ci mancherebbe. Quindi insomma fare il possibile è già qualcosa, è già non far nulla. Quindi, considerando che quando sono partiti nessuno ne voleva sapere di questo castello. Certo, ci sono stati i servizi sul TG1, TG2, ma... insomma la 7, Radio 24, che comunque è una radio importante per la vostra. Senti Francesco, ma voi che modello di gestione avete in mente? Cioè, perché qua la morale è chiara, il patrimonio artistico, museale, culturale italiano è sconfinato, è bellissimo, ma non ci sono mai i soldi per renderlo, diciamo, fruibile per tutti, pubblico, per mantenerlo, eccetera. Voi avete in mente un'idea, un modello? Proponete qualcosa come cittadini di San Mezzano? Allora, noi in realtà l'avremmo un'idea, però è più un sogno che una cosa realizzabile. Noi ci penserebbe, sarebbe logico farci un polo sociomuseale, quindi insomma una specie di luogo dove ci sono nel piano principale un museo, aperto insomma alla cittadinanza. Con un biglietto magari? Sì, certo, un biglietto a pagamento, è ovvio, insomma, perché comunque la struttura si deve mantenere. Al secondo piano aree di co-working, insomma aree di mostre private, insomma una cosa del genere, al piano terreno, che è già abilitato per questo, ristorazione shop area, e poi nel parco tutte attività ricreative. Quindi un modello anche di business in qualche modo. Certo, un modello di business che comunque, considerando che le spese sarebbero tantissime, certo, che serva per autosostenere il castello, capito? Non per farci i soldi, per dire no, lo trasformo un museo e ci faccio un sacco di soldi, chi ci può fare un sacco di soldi lo trasforma in hotel, capito? Certo. Noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Complimenti per la petizione. Figuriamoci, se posso colgo l'occasione per promuovere la raccolta firme sul SAI, perché come sapete il SAI ha aperto i luoghi del cuore. Bravissimo, luoghi del cuore. Attualmente siamo i primi, però insomma è dura e lunga questa battaglia, quindi invito tutti i vostri ascoltatori ad andare su Luoghi del Cuore, cercare Castello e Parco di San Mezzano e a votarlo. E far diventare il loro luogo del cuore il Castello di San Mezzano. Una battaglia in cui dovrebbero vincere tutti e comunque... Certo. Vi facciamo ancora in bocca al lupo. Ciao, grazie Francesco. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, grazie. E comunque andateci sui Luoghi del Cuore del FAI, sia che sia il Castello di San Mezzano, sia che il vostro luogo sia un altro, andateci perché è un'iniziativa straordinaria. Save San Mezzano. Basta guardare le foto su internet per capire la meraviglia di questo strepitoso castello. Ci risentiamo tra poco. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Together we will stand, every boy, every girl, and a man. Questa è Si può fare. Questa che abbiamo appena ascoltato è il nostro Si può fare in musica, ovvero Let's Work Together, Can't Beat. La canzone ci è stata segnalata da Daniele. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei Si può fare in musica, ovvero se siete dei musicisti, dei cantautori, dei compositori, o anche se semplicemente avete dei gusti belli come quelli di Daniele. Esatto, anche semplicemente se avete, o anche dei gusti brutti, ma l'importante è che abbiate una canzone che secondo voi in qualche modo ben spieghi il concetto di Si può fare. Allora vi chiediamo di segnalarcela, così noi la facciamo sentire, la mettiamo sul sito, la mettiamo sui nostri account. Come fare a segnalarcela? Mandateci una mail a sipuofare@radio24.it oppure sui nostri account social, appunto sulla nostra pagina Facebook Si può fare trattino radio 24, oppure Twitter @sipuofare24, oppure addirittura anche sui nostri account personali di Twitter. Il mio è @carlogabardini e c'è anche il mio @alemaurizzi. E tra l'altro questo Let's Work Together potrebbe essere il titolo, il mantra anche della storia che vi andiamo a raccontare adesso. Oggi a Maiano di Sessaurunca, nell'ambito del Festival dell'Impegno Civile, c'è una importante manifestazione nazionale per la legalità contro le mafie. Tutto inizia dopo l'incendio su un terreno confiscato alle mafie, un incendio avvenuto qualche giorno fa, un terreno gestito dalla cooperativa Al di là dei sogni. Ed ecco noi Simmaco Perillo, che è responsabile di questa cooperativa. Ciao Simmaco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Let's Work Together è quello che fate voi, lavorate insieme, perché veramente il senso della cooperativa, adesso racconteremo perché da un terreno confiscato a una mafia, a un'idea imprenditoriale, inizia una avventura. Facciamo un passo indietro prima di arrivare all'incendio e alla manifestazione di oggi. Come nasce questa avventura, Simmaco? Nasce un po' di anni fa, quando iniziando praticamente a lavorare con ragazzini che venivano ospitati da noi in casa famiglia, uno dei ragazzini più grandi arrivava al compimento del 18° anno di vita e non aveva altre possibilità, perché purtroppo per condizioni sue familiari non aveva la possibilità di trovare un'altra collocazione. Parliamo di ragazzi con problemi, ragazzi disabili anche, vero? Sì. Ok. L'idea nostra fu quella di provare a reinventarci un lavoro per fare reinserimento lavorativo e individuammo questa possibilità all'interno dei beni confiscati alla Camorra qui in provincia di Caserta. Sì. Nel comune di Sessaurunca ci fu proposto la possibilità di gestire 17 ettari di terreno con un immobile sopra. Un bene confiscato che era stato sequestrato nel 1991, confiscato nel 94, è arrivato al demanio comunale nel 98 e noi lì arrivavamo nel dicembre, nell'inverno del 2005. E quindi quasi a dirci che per 15 anni, nonostante lo Stato avesse fatto il suo dovere, purtroppo noi cittadini non avevamo preso consapevolezza e coscienza del problema. Mm. Voi fate parte del consorzio La Nuova Cooperazione Organizzata, così? Certo, sì. Ecco, ci vuoi spiegare anche questo nome che ricopia quello della Nuova Camorra Organizzata? Sì, in realtà è stato un percorso, perché quando abbiamo iniziato a coltivare i terreni, a mettere i terreni in biologico e a fare i primi prodotti e poi pensare di trasformarli per fare i sottoli, i sottaciti, ci accorgemmo che in realtà non eravamo soli sul territorio, ma sì, grazie al Comitato Don Peppe Diana, all'Associazione Libera Nome e Numeri Contro le Mafie, incontrammo altre persone, altre cooperative che stavano facendo questo su altri beni confiscati. Nell'incontro, nell'idea di fare una rete comune, di costruire una rete di economia sociale, ci venne in mente che forse la cosa più preziosa che avevamo dimenticato era il linguaggio, le parole. Se giusto, di trasformazione si trattava, non bisognava fermarci semplicemente a riutilizzare i beni a loro sottratti. Ma anche le parole. Gli avete rubato anche il logo. Gli avete rubato il logo. Questo lo trovo molto bello e molto indicativo. Era proprio il nome della Nuova Camorra Organizzata. Insomma, l'acronimo perlomeno. L'acronimo. Mettersi insieme mano alla mano per percorrere un tratto di strada non facile. Quale è quello che state facendo voi? Non facile perché la dimostrazione, ahimè, è arrivata qualche giorno fa, quando la mattina hai trovato che cosa? Le terre bruciate? Sì, abbiamo trovato questo incendio di 4 ettari, interessa 4 ettari del terreno, dove lì avevamo allocato piante di noci, alberi da fusto per la riforestazione in realtà, e ci siamo trovati praticamente la mattina con questo grosso incendio che purtroppo ha fatto danni per un numero di 1200-1400 piante. Sì, ma cosa hai pensato immediatamente? Il grande sconforto, la beffa o ricominciamo subito da capo? No, ricominciamo subito da capo, anzi, non ricominciamo, andiamo semplicemente avanti e confidiamo in maniera forte nelle forze dell'ordine che facciano un po' chiarezza su questa vicenda. Perché non si sa ancora se è doloso o meno, diciamo, o ci sono delle certezze che però non si possono ancora dire? Allora, in realtà, dalla prima visita, dal sopralluogo effettuato sia dai carabinieri che dalla polizia, sembra essere di natura dolosa. Ma è chiaro che andrei cauto, andrei calmo per cercare in qualche modo anche di non dare pubblicità a chi in qualche modo quel giorno ha voluto fare questo gesto così. Sì, non parliamo per favore di bravata, non parliamo di bravata perché qua di bravitudine non c'è assolutamente un fico secco, assolutamente è un grave atto e quindi così. Però giustamente mi sembra di capire che non diamo nemmeno l'idea che abbiano segnato un punto, non hanno neanche segnato un punto, nel senso che non hanno segnato il punto, ecco. Noi siamo lì, ci abitiamo, stamattina siamo tutti quanti a coltivare, non ci siamo mai fermati, non abbiamo nessuna intenzione di fermarci e abbiamo solamente voglia di rimettere mano quando prima su quei terreni per riportarli in altra volta e rimettere i noci, molto giusto. È questo un po' il messaggio che arriva in questi anni, si può dire è cambiato il clima, sembra una banalità ma è la verità. Qualche anno fa, anni fa, quando siete partiti, forse questo clima di solidarietà rapido, veloce, la rete aiuta, anche i messaggi, la manifestazione di oggi, tutto che arriva velocemente a dare la sensazione che veramente non siete soli. Oggi è la forza della rete, l'abbiamo voluto proprio chiamare così. 10 anni fa, 12 anni fa eravamo da soli quando subimmo il primo atto vandalico che ci vennero praticamente a distruggere l'immobile prima del nostro insediamento. Ed eravamo lì soli, una trentina, una quarantina di noi che provavano in qualche modo a raccontarsela tra di loro. Oggi c'è un paese che si muove, in questa provincia c'è una nuova primavera e io sono contento di farne parte e di sapere che c'è stato un grosso cammino. È per questo che non vogliamo dare nessun tipo di spazio, né tantomeno di pubblicità, perché queste cose terrorizzano, alle volte spaventano e fanno in modo che la gente si allontana. Dobbiamo esserci, tutti. Ci dici anche qualcosa sui ragazzi che lavorano lì con te, chi sono, cosa fanno, i loro nomi, cosa producete? Sottaceti? Mi viene l'acquolina ovviamente in bocca. Abbiamo praticamente chiuso la fiera. Abbiamo messo su anche l'impianto, lo stabilimento di trasformazione dei prodotti agricoli. Quindi siamo in grado proprio a chilometro zero di seminare, raccogliere e trasformare il prodotto. Facciamo passate, sughi pronti, confetture, marmellate, sottoli, sottaceti. E lo facciamo sia per il nostro marchio NCO, Nuovo Commercio Organizzato, sia per conto terzi. La cosa bella è che abbiamo cominciato ad elaborare anche delle ricette con degli chef del territorio, provando in qualche modo a salvaguardare e a partire dal seme autoctono della regione Campania, i semi antichi che in qualche modo erano andati dispersi. Chi ci lavora? Sì. Ci lavorano i ragazzi diversamente abili, ci lavora soprattutto gente che per degli anni è finita nelle strutture totalizzanti, quali gli ospedali manicomiali, quali gli ospedali psichiatrici giudiziari, quali le strutture ricettizie ospedaliere come le RSA, che in qualche modo hanno tenuto collocato le persone per degli anni all'interno di strutture senza fargli stare dentro la vita. Siamo partiti da loro, andandoci a prendere le persone. Il valore terapeutico del lavoro anche per chi ha alle spalle o ancora sta attraversando periodi di difficoltà, il valore terapeutico del lavoro nei campi sicuramente, ma sono tanti i valori aggiunti, si può dire questa parola, prendiamo la prestito economica, che ci mettete dentro lì a Sessarunca. Noi vi abbracciamo moltissimo, moltissimo, complimenti per tutto quello che fate e giustissimamente ricordiamo che gli ominichi che hanno appiccato l'incendio non hanno neanche scalfito quello la che vostra fate. Forza, complimenti.

Carlo, immaginati che emozione e che casino sentire questo brano eseguito da mille musicisti contemporaneamente e dal vivo. Incredibile. Manca un giorno. Siamo alla vigilia. Domani That's Live, 24 luglio a Cesena, allo stadio Manuzzi, torna la grande band, la super band organizzata da Fabio Zaffagnini. Ciao Fabio. Ciao a tutti. Ciao Fabio. Allora, qua bisogna fare qualche passo indietro. Adesso lo facciamo. Fabio Zaffagnini, organizzatore prima dei mille per i Foo Fighters. Ricordiamo. Esatto, poi dopo abbiamo deciso di fare un passo in avanti, nel senso che tante persone avevano visto il video in cui mille musicisti facevano un tributo ai Foo Fighters. E quando si parla di tanti, diciamo, parliamo di 31 milioni di persone che hanno visto il video, no? Giusto così, perché a volte uno dice tanti, nel senso 5.000, 10.000, no, 31 tutta milioni. Cesena, no, 31 milioni. Tanti. Prego, scusa, però prosegue. Però poche persone erano presenti però fisicamente quel giorno, che è praticamente esattamente un anno fa, perché era il 26 di luglio del 2015. Sì. E poi pochi sono rimasti davvero impressionati, perché vedere dal vivo mille persone che suonano è uno spettacolo davvero incredibile. Quindi abbiamo deciso, ok, proviamo a esplodere questo concetto e facciamo un concerto intero allo stadio, in cui mille più musicisti, perché in realtà sono quasi 1200, ripercorrono la storia della musica rock in un concerto intero, quindi un'ora e mezza di spettacolo. Una scaletta strepitosa. 1200, perché no, scusami. Mille non bastavano. Esatto, mille non bastavano. È mille più IVA praticamente, 1200. Avete esagerato. Ti faccio risentire, Fabio, quello che avevi detto l'ultima volta che ci eravamo sentiti, quando avevi annunciato questo ennesimo progetto e stavate cercando in particolare dei violinisti. Allora, ci saranno 250 componenti per ogni strumento, tra chitarra, basso, batteria e voce. Poi ci sono 20 tastiere, 30 cornamuse e stiamo cercando 50 violini. Allora, siccome in questa puntata l'abbiamo detto, stiamo risentendo anche alcune delle storie in cui abbiamo parlato nelle settimane scorse. Non è che stiamo chiudendo, vedendo dove siamo arrivati. Allora, sti violini ci saranno? Ci saranno, i violini sono arrivati, abbiamo sentito e coinvolto un po' di conservatori qua in giro, ci sono ragazzi giovani, ci sono persone un po' più mature, quindi bene o male ci sono anche i violini. Ma le cornamuse a che servono? Anche le cornamuse arrivano perché uno dei brani in scaletta è It's a Long Way to the Top degli AC/DC, che nella versione originale vuole le cornamuse, e quindi noi abbiamo fatto una call nazionale alle cornamuse scozzesi, che sono diverse da quelle altre, per venire a suonare con noi quel pezzo lì. Quindi sono arrivati dalla Scozia? No, sono venuti dall'Italia, perché in Italia c'è un discreto bacino di cornamuse scozzesi. Anch'io non immaginavo, non avevo neanche idea che ci fossero delle differenze così importanti tra cornamuse zampogne, pive emiliane, cornamuse galiziane. Sono tutte differenti, e quindi abbiamo scoperto strada facendo che non era poi così semplice come sembrava. Però in realtà ce ne sono, le abbiamo trovate. Ma stiamo tra l'altro sentendo, esatto, in sottofondo la Ma versione... zampogne niente invece? Zampogne no, quella è Natale. Cioè, 1200 musicisti, uno suona la zampogna ed è escluso, poverino. L'unico dice, scusi, io suono la zampogna, non mi hanno mai chiamato. Perché? Ma vuoi far suonare i CDC con la zampogna? Senti, l'altra volta siete andati a tempo, mille per i Foo Fighters, è stato strepitoso far suonare mille musicisti tutti assieme. Questa volta sarete anche di più, la scaletta è lunga, ci sarà sicuramente qualcuno che a un certo punto ci sarà una sbavatura, io me lo immagino. Come state organizzando? Punizioni. Bravo, esatto, questo volevo sapere. Beh, abbiamo preso un gruppo di energumeni che sono pronti a menare a sangue quelli che sbagliano le note o suonano fuori tempo. Che sono gli esclusi, sono i suonatori di zampogne esclusi che fanno i buttafuori. Esatto. No, a parte gli scherzi, veniamo comunque da mesi di preparazione a casa più 4 giorni di prove molto molto molto intensive fatte qua a Cesena con i vari responsabili musicali, con il direttore d'orchestra, quindi ci stiamo preparando molto intensamente, perché oramai siamo davvero agli sgoccioli. Ma ci resterà un po' di spazio anche per il pubblico? Perché immagino che lo spazio allestito per la band già sarà di per sé dominante nello stadio Manuzzi. Beh, Beh sì, allora tutti i musicisti occupano lo spazio del campo da calcio che sarà fitto di persone che suonano, mentre tutto il pubblico è sugli spalti, sicuramente sarà coinvolto, però adesso non vogliamo svelare tutto, anzi, se qualcuno vuole venire c'è ancora spazio insomma per riuscire a godersi questo spettacolo. Senti, fra l'altro ci saranno anche musicisti famosi, importanti, da Saturnino. Ah, credo anche Raul Casadei, possibile? Allora, sì, viene l'orchestra Casadei, sì. Viene Saturnino, vengono Sergio Carnevale e Livio Magnini di Blu Vertigo, insomma, ci sono dei musicisti comunque. Ma hanno risposto alla call? Sì, c'è Mark De Negrita, viene anche a suonare, c'è Cesare delle Storie Tese, sì, loro hanno mandato il loro video in cui suonano, candidandosi come tutti gli altri. Come tutti gli altri, assolutamente. Sono stati selezionati, anche loro hanno studiato. E verranno a suonare, ma quest'anno poi ci sono tanti musicisti che vengono anche da fuori dall'Italia, ci sono dei canadesi, ci sono anche dei messicani, quindi è diventata una cosa internazionale. È questo che è stupendo, se devo sì. dire, soprattutto prima giustamente Alessio ti chiedeva lo spazio per il pubblico, ma mi piace molto anche lo spazio per gli artisti, perché penso che per la prima volta sarà un mega concerto straordinario dove gli artisti non pretenderanno di avere il camerino singolo, spero. Esatto, no, saranno tutti fuori all'aperto, all'addiaccio, sarà una cosa un po' alla Woodstock, non so come dire. Al massimo hai dei detto tendoni, benissimo, al hai massimo, detto benissimo. Ci sarà dei tendoni. Senti, ma come possiamo immaginarci che sarà organizzato lo spazio fisico? Mi incuriosisce molto, i 250 batteristi, bassisti, chitarristi, insomma quelli che costruiscono il nerbo di questa mega band nello spazio, si può dire come avete pensato sì, di allestire? Certo. Beh, allora ci sono tutti i battisti che occupano la parte centrale del campo da calcio, loro occupano tantissimo spazio ovviamente, abbiamo dedicato a loro circa per ogni batterista 2 metri per 2, poi da un lato ci stanno tutti i chitarristi, dall'altro ci stanno tutti i bassisti, di fronte ci sono tutti i cantanti e poi dopo ci sono degli spazi un po' più piccoli per violinisti, tastieristi e piper, che sono i suonatori di cornamusa. Ma senti, ma farete un disco di questo concerto? Ci sarà oltre a un video che immagino che sarà imperdibile. Stiamo valutando la cosa insieme a Sony Music, quindi probabilmente sì, ci sarà un disco e se riusciamo a fare le cose in fretta lo faremo uscire già a settembre. Vi auguro tutto il meglio per la divisione dei diritti fra i musicisti, che mi sembra diciamo. Ma loro sai, sono ben organizzati. Senti, da 0 a 100 quanta paura hai? Non è il primo evento che organizzi, anzi, però insomma questa volta l'asticella si alza sempre di più, ecco, questo sì. Si è alzata, ma sono abbastanza fiducioso perché i musicisti sono davvero preparati e dalle prove vediamo che sono davvero pronti a questa sfida. Sono noi molto, stiamo molto incrociando caldo. Le dita naturalmente, ma se dovesse scendere qualche goccia d'acqua dal cielo, non dire quella parola. Lo sapevo. Vabbè, cioè, serviva proprio per esorcizzare. È cielo esatto. Sì, non commenta, non piove, non piove, non commenta, non esiste questa eventualità, assolutamente, è chiaro, sarà così. Senti, giustamente si diceva si alza sempre l'asticella, ti confesso che noi ovviamente adesso non ti chiediamo niente, ma ti aspettiamo al varco per il prossimo progetto, perché dopo il primo, dopo il secondo che è gigantesco, io non oso pensare che cosa sia il prossimo progetto che intendi, però prima o poi te lo chiederemo in una futura intervista. Io adesso penso che andrò in vacanza dopo questo progetto. Giusto, per 15 anni. Esatto, ma esiste Fabio, una chat su WhatsApp di tutti i 1000 musicisti? L'avete messa su? Sì, allora c'è una pagina per i musicisti su Facebook, c'è una chat su WhatsApp, abbiamo fatto un'app che permette di controllare, gestire e mandare informazioni a tutti i vari musicisti. C'è l'app addirittura, va, fantastici. Sì, perché, che ne so, quando devono fare check-in alle prove, per mandare a tutti i messaggi, per dare a loro i tutorial, per dare a loro tutte le informazioni in tempo reale, abbiamo deciso di fare un'app di gestione dei musicisti. Sì. Fabio Zaffagnini, ministro delle infrastrutture in pectore, per quanto riguarda si può fare, almeno grazie. Grazie come mille. Si dice merda. Si può dire anche in radio, tanta si dice merda, sì. Tanta merda. Ciao Fabio. Complimenti. Ciao, grazie, ciao a tutti. E va bene, questa era una puntata particolare, Carlo, abbiamo risentito tante voci, tante belle storie, ultima quella di That's Live. veramente incredibile. Siamo verso la chiusura della stagione, giustamente. Stiamo tirando le fila di tutto un anno. Stiamo anche tirando le cuoia, forse, no, perché abbiamo bisogno di meritate vacanze. Allora, ricordiamo i nostri contatti per gli ascoltatori. Se volete scriverci, si può fare @radio24.it, la mail, e poi la pagina Facebook, si può fare @radio24, i nostri account su Twitter, @si può fare 24, anche i nostri account, il mio @AleMaurizzi. E il mio è @CarloGabardini. E sono anche su Snapchat, volevo dirti, ma ne parliamo un'altra volta. Paura, mi fai molta paura. Vi aspettiamo sempre come Carlo Gabardini anche su Snapchat. Al prossimo weekend, ciao a tutti. Ciao a tutti.